Giusto l'altro giorno mi è capitato di riflettere sui destini miei e su quelli di Schliemann, ricavandone la sensazione che in fin dei conti a me è andata ancora bene. Heinrich Schliemann è quel ricco commerciante che dal 1871, scavando un po' qua, un po' là, tra Asia Minore e Grecia, e soprattutto sapendo Omero a memoria, ha creduto di aver scoperto le antiche rovine di Troia. C'è scritto su qualche libro, Antichità Troiane per esempio, e un altro intitolato proprio Troia, apparsi fra il 1874 e il 1890, che poi è l'anno della sua morte. Le sue teorie hanno avuto vita breve, e se avesse potuto sopravvivere fino al giorno d'oggi, a sentire la tesi di Felice Vinci, che in Omero nel Baltico sostiene che Troia fosse addirittura in Scandinavia e che tutte le vicende omeriche si sarebbero svolte ben lontano dal Mediterraneo, beh, credo che Schliemann ci sarebbe rimasto malissimo. Tempo fa a me è capitato di scrivere un articolo sulle tecniche con cui, tramite le comunicazioni di massa, si manipola la coscienza altrui, colonizzandone la memoria. Un tema sul quale ho spesso detto la mia. Questo articolo, usufruendo di una metafora piuttosto abusata, e qui sta il punto, questo articolo l'avevo intitolato Cavalli di Troia massmediatici. Cavalli di Troia massmediatici. Non l'avessi mai fatto. Un noto motore di ricerca in internet, chiedendogli notizie di Felice Accame, virgolette aperte, Felice Accame, virgolette chiuse, ne segnala la presenza nel sito www.sessoselvaggio/sessoporno/donna Troia. Non ho osato né cliccare né tantomeno verificare cosa possa essere capitato al povero Schliemann.